Roberto da Milano, che è un mediatore creditizio. Buongiorno. Buongiorno, volevo qualche informazione circa le nuove norme che regoleranno le iscrizioni dei mediatori creditisti, in quanto prima era molto semplice acquisire questo titolo, sì. E quindi volevo sapere se attualmente ci saranno dei cambiamenti. Eh sì, Roberto, li ha spiegati molto bene prima anche Nicola Borzi, magari un piccolo riassunto glielo possiamo fare rapido, e qualora perdessimo qualche pezzo per strada ricordo la pagina di Plus 24 di sabato. Nicola. Sui mediatori creditizi sicuramente la norma più importante è quella che riguarda il fatto che dovranno essere costituite delle persone giuridiche che abbiano una capacità patrimoniale di almeno 120.000 euro. Tra l'altro l'ascoltatore faceva riferimento ad una modalità attuale di iscrizione a questa categoria molto semplice. Oggi l'iscrizione avviene per richiesta, attestando di avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza dell'Unione Europea o di avere la cittadinanza di altri paesi che hanno dei trattati di reciprocità con l'Unione Europea, attestando di avere un diploma di scuola media superiore o dei diplomi equipollenti e attestando di non avere sostanzialmente carichi pendenti, quindi i cosiddetti requisiti di onorabilità. Questo è quanto vale oggi. Si presenta domanda agli uffici della Banca d'Italia e si viene iscritti. Domani le cose saranno diverse, ripeto, ci sarà innanzitutto la necessità del requisito della patrimonializzazione, bisognerà costituire una società di capitali, ci sarà la necessità nel momento in cui entreranno in vigore le norme, ripeto, il tempo non è immediato perché la Banca d'Italia non ha una scadenza entro la quale istituire il cosiddetto organismo, di superare un esame professionale sul quale ancora non conosciamo esattamente le materie e le modalità di ammissione e di valutazione. Sicuramente resteranno in vigore il requisito della cittadinanza, il requisito del diploma di scuola media superiore equipollenti e i requisiti di onorabilità si faranno ancora più stringenti.